Speriamo nella risurrezione. Considerate la fine di ognuno degli imperatori e che morirono della morte comune a tutti. Se questa conducesse alla insensibilità, sarebbe una fortuna per tutti gli ingiusti. Ma poiché la sensibilità rimane in tutti coloro che sono vissuti e una pena eterna è agli ingiusti riservata, non trascurate di essere persuasi e di credere che queste cose sono vere. Le necromanzie, l'esame del cadavere di fanciulli incorrotti, l'invocazione delle anime degli uomini, coloro che dai maghi sono chiamati evocatori di sogni e i loro assistenti, e quanto si effettua da parte di coloro che conoscono queste scienze, vi persuadano che anche dopo la morte le anime si trovano nella sensibilità. Vi persuadano anche gli uomini posseduti e sfiniti dagli spiriti dei morti, coloro che tutti chiamano demoniaci e maniaci, ugualmente quelli che voi chiamate vaticini di Anfiloco, di Dodoni e della Pizia e tutte le altre cose simili a queste. Così pure vi persuadano gli insegnamenti degli scrittori, di Empedocle e di Pitagora, di Platone e di Socrate, e la fossa di cui si narra in Omero e la discesa di Ulisse per conoscere questi luoghi e quanto di simile a ciò è stato detto. Considerate noi dunque almeno come loro, poiché crediamo in Dio, non di meno ma più di loro. Noi che speriamo di riavere di nuovo i nostri corpi, anche se cadaveri e sepolti nella terra, perché affermiamo che nulla è impossibile a Dio. A ben riflettere, quale cosa potrebbe sembrare più incredibile di quanto non lo sarebbe se qualcuno ci dicesse, ammesso che non ci trovassimo nel corpo, che da una piccola goccia di sperma d'uomo è possibile che le ossa, i nervi e la carne siano stati composti nella forma che vediamo. Sia un'ipotesi quello che ora dico. Se a voi qualcuno non foste fatti in questo modo né di tal genere, qualcuno mostrandovi lo sperma dell'uomo e l'immagine dell'uomo dipinta, si rivolgesse dicendo che questa deriva da quello, credereste prima di averlo constatato realmente? Né alcuno sarebbe contestare. Allo stesso modo, poiché non avete ancora visto un uomo risorto, siete increduli. Ma come all'inizio non avreste creduto possibile che da una piccola goccia si originassero esseri viventi, mentre vedete bene che esistono, allo stesso modo dovete considerare che non è impossibile che i corpi degli uomini dissolti e decomposti, come semi nella terra, nel tempo stabilito per ordine di Dio, risorgeranno e si rivestiranno di incorruttibilità. Non possiamo dire di quale potenza degna di Dio parlino coloro che dichiarano che ciascuno torna al luogo da dove è venuto e che su questo Dio non può nulla. Ma noi osserviamo ciò. Non avrebbero creduto possibile che da tali elementi si generassero tali esseri, simili a loro stessi e a tutto l'universo. Riconosciamo però che è meglio credere alle cose impossibili agli uomini e alla loro natura, anziché non credere come gli altri, poiché sappiamo che Gesù Cristo, nostro Maestro, ha detto «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». E «Non temete», disse, «coloro che vi uccidono e che dopo ciò non hanno nessun altro potere, ma temete colui che dopo la morte ha il potere di gettare anima e corpo nella Geenna». La Geenna è il luogo in cui devono essere puniti coloro che hanno vissuto nell'ingiustizia e che non hanno creduto che si realizzerà quello che Dio ha insegnato per mezzo di Cristo. Teorie pagane analoghe. Anche la Sibilla e Istaspe dissero che nel fuoco sarebbe avvenuta la distruzione degli esseri corruttibili. I filosofi detti stoici insegnano che Dio stesso sarà distrutto nel fuoco e dicono che il mondo nascerà di nuovo per trasformazione. Noi invece riteniamo che Dio, creatore di tutto, è superiore alle cose che mutano. Se dunque affermiamo alcune cose in modo simile ai poeti e ai filosofi da voi onorati, mentre altre più elevate e divine le affermiamo da soli attraverso la dimostrazione, per quale motivo siamo ingiustamente odiati da tutti? Sembriamo pronunciare una dottrina di Platone quando affermiamo che tutte le cose sono create e ordinate da Dio, una dottrina degli stoici quando parliamo della distruzione nel fuoco. Sembreremo dire le stesse cose dei poeti e dei filosofi, affermando che le anime degli ingiusti, sensibili anche dopo la morte, vengono punite, mentre quelle dei buoni vivono nella beatitudine lontano dalle sofferenze. Riguardo al fatto che non bisogna rendere culto alle opere uscite dalla mano dell'uomo, affermiamo le stesse cose del comico Menandro e di coloro che hanno detto questo. Hanno affermato infatti che il creatore è più grande di ciò che è da lui creato. Nel dire che il Verbo, primogenito di Dio, Gesù Cristo nostro Maestro, è nato senza rapporto umano, è stato crocifisso, è morto, è risorto ed è asceso al cielo, nulla di nuovo diciamo rispetto a coloro che presso di voi sono detti figli di Zeus. Sapete bene quanti figli attribuiscono a Zeus coloro che presso di voi sono scrittori stimati. Hermes, la parola interprete, è il maestro di tutto. Asclepio, che era medico e che fulminato ascese al cielo. Dioniso, fatto a pezzi, ed Eracle, che si buttò nel fuoco per scampare alle fatiche, e i Dioscuri, figli di Leda. Perseo, figlio di Danae e Bellerofonte, di stirpo mortale, a cavallo del Pegaso. Che dire di Arianna e di coloro che, come lei si dice, siano stati tramutati in astri? E perché i vostri imperatori, quando muoiono, li ritenete sempre degni di immortalità e producete anche un testimone che abbia visto Cesare cremato sollevarsi dal fuoco verso il cielo? E quali fatti si narrano su ognuno dei cosiddetti figli di Zeus? Non è necessario dirlo a coloro che già lo sanno, tranne il fatto che sono stati scritti a vantaggio e ad esortazione di coloro che vengono educati. Tutti infatti ritengono che è bello essere imitatori degli dèi. Sia ben lungi da una mente saggia una tale concezione degli dèi, poiché presso costoro lo stesso Signore e creatore di tutte le cose, Zeus, è parricida e figlio di padre simile. Vinto dalla passione erotica e da vili e turpi piaceri, commise adulterio con Ganimede e con molte donne e ne ebbe figli che si comportarono allo stesso modo. Ma, come ho già detto, i demoni malvagi furono autori di ciò. A noi invece è stato insegnato che diverranno immortali solo coloro che hanno vissuto vicino a Dio nella santità e nella virtù, mentre crediamo che saranno puniti nel fuoco eterno coloro che hanno vissuto nella colpa e non si sono convertiti. Il figlio di Dio, di nome Gesù, anche se fosse un uomo come gli altri, si potrebbe chiamare degnamente figlio di Dio per la sua saggezza. Infatti, tutti gli scrittori chiamano Dio padre degli uomini e degli dèi. Se poi affermiamo che in modo speciale, fuori del comune essere generati, egli è stato generato da Dio quale verbo di Dio, come abbiamo già detto, questo deve essere considerato da voi come concetto comune a coloro che dicono che Hermes è parola annunciatrice da parte di Dio. Se qualcuno poi obietta che egli fu crocifisso, anche questo risulta comune ai già menzionati figli di Zeus, che secondo voi soffrirono. Di essi poi si narrano sofferenze di morte non uguali ma diverse, così che neppure per la singolarità della sofferenza egli appare inferiore. Ma, come abbiamo promesso, dimostreremo nello svolgimento del discorso che egli è superiore, anzi è già stato dimostrato. Che sia superiore appare infatti dalle opere. Quando poi diciamo che è nato da una vergine, anche questo per voi deve essere ritenuto comune a Perseo. Quando diciamo che egli ha sanato gli zoppi, i paralitici e i sofferenti dalla nascita, sembreremo dire cose simili a quelle che si narra siano state compiute da Esculapio. Una triplice dimostrazione. Affinché ora anche questo vi sia chiaro, vi daremo una dimostrazione. Tutto ciò che abbiamo detto, dopo averlo imparato da Cristo e dai profeti che lo hanno preceduto, sono gli unici veri insegnamenti e più antichi rispetto a quelli di tutti gli scrittori che sono esistiti, e chiediamo che siano accettati non perché ripetono le stesse cose di quelli, ma perché affermiamo che sono verità. e solo Gesù Cristo in senso proprio è stato generato figlio di Dio. È suo verbo, suo primogenito e sua potenza. Fattosi uomo per suo volere, ci insegnò queste cose per il rinnovamento e la rigenerazione del genere umano. Prima che egli fosse uomo tra gli uomini, già alcuni, sotto l'influsso dei demoni malvagi, di cui abbiamo parlato, affermarono in anticipo, per bocca dei poeti, come già accadute, le cose che dissero fantasticando, nello stesso modo in cui sferrarono contro di noi calunnie infamanti, e ci accusarono di azioni empie di cui non vi è nessun testimone né alcuna prova. Solo noi siamo odiati per il nome di Cristo. Anzitutto, pur dicendo cose simili ai greci, solo noi siamo odiati per il nome di Cristo. E pur non commettendo nessuna ingiustizia, siamo uccisi come colpevoli. Altri, invece, in altri luoghi, adorano gli alberi, i fiumi, i topi, i gatti, i coccodrilli e molti altri animali privi di ragione. E gli stessi esseri non sono onorati da tutti, ma in modo diverso l'uno dall'altro, cosicché tra di loro appaiono tutti senza religione per il fatto che non adorano gli stessi esseri. Solo di una cosa ci potete accusare: non adoriamo gli stessi dei vostri e non offriamo libagioni e grassi ai morti, né corone e sacrifici sopra le immagini. Che poi gli stessi esseri siano ritenuti dei presso gli uni, animali presso gli altri, vittime presso altri ancora, voi lo sapete bene. Abbiamo rinnegato gli antichi dei. In secondo luogo, noi, che di tutto il genere umano eravamo i più antichi adoratori di Dioniso, figlio di Semele, e di Apollo, figlio di Latona, i quali per il loro amore verso i maschi compirono azioni che è turpe raccontare, di Persefone e di Afrodite, che furentemente furono trasportate verso Adone e di cui celebrate i misteri, di Asclepio e di qualche altro tra coloro che sono chiamati dei, li abbiamo rinnegati a motivo di Gesù Cristo, sebbene ci minacci la pena di morte. Abbiamo consacrato noi stessi al Dio ingenerato e imperturbabile. Sappiamo che egli non si gettò per passione su Antiope o sulle altre o su Ganimede, né gli capitò di essere liberato dal Centimane, grazie all'aiuto di Teti, né si adoperò per questo motivo affinché Achille, figlio di Teti, uccidesse molti greci a causa della concubina Briseide. Abbiamo compassione di coloro che vi credono. Sappiamo infatti che i demoni sono colpevoli di queste cose. Altre false divinità. Terzo punto. Anche dopo l'ascensione di Cristo in cielo, i demoni proposero degli uomini che dicevano di essere dei, e questi non solo non furono perseguiti da voi, ma furono anche ritenuti degni di onore. Un certo Simone di Samaria, del villaggio di Gitton, il quale sotto Claudio Cesare, per opera di demoni che influirono su di lui, aveva compiuto potenti azioni di magia nell'augusta capitale di Roma, fu ritenuto un dio e come dio è onorato presso di voi in una statua. Questa statua è stata innalzata nel fiume Tevere tra due ponti e reca questa epigrafe in latino: Simoni Deo Sancto. Quasi tutti i samaritani e pochi uomini di altri popoli lo adorano riconoscendolo come il primo dio. E una certa Elena, che in quel tempo gli girava attorno e che prima viveva in un lupanare, affermano che sia stata la prima emanazione della sua mente. Sappiamo che un certo Menandro, anch'egli di Samaria, del villaggio di Capparetea, discepolo di Simone, avendo subito l'influsso da parte dei demoni e trovandosi in Antiochia, con la sua arte magica trasse in inganno molte persone. Egli poi riuscì a convincere coloro che lo seguivano che non sarebbero morti. Ora vi sono alcuni che credono a ciò per causa sua. Un certo Marcione del Ponto, inoltre, il quale anche adesso sta insegnando a coloro che lo seguono di credere a un dio più grande del Demiurgo, presso ogni genere di uomini, con l'aiuto dei demoni, fece sì che molti bestemmiassero, rinnegassero che Dio era artefice di ogni cosa e credessero che sopra di lui un altro dio più grande aveva fatto cose più grandi. Tutti coloro che li seguono, come abbiamo già detto, sono chiamati cristiani, allo stesso modo in cui hanno in comune il nome qualificato della filosofia, coloro che pure non condividono con i filosofi le stesse dottrine. Se poi essi compiono quelle azioni nefande raccontate nei miti, rovesciamento della lucerna, accoppiamenti senza pudore, pasti di carne umana, noi non lo sappiamo. Sappiamo però che, nonostante le loro dottrine, non sono né perseguitati né uccisi da voi. Noi abbiamo composto un trattato contro tutte le eresie. Se volete consultarla, ve la forniremo.